la gamme, okay. Hello papi, mais qui passe ça? J'entends des bails atroces au moins. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Dans mes doigts. En katana, baby, tu dettes ça. On got on a baby, on got on a baby to the top. On got on a baby, oh cha cha, oh cha cha, oh cha cha. Eccoci. Ciao. Ciao a tutte, tutti e tutto. Ciao. Marta, Fede, Carlotta, siamo tornate. Questa volta ci proviamo in tre a fare la diretta. Eh sì, perché così, in due amore, in tre è una festa. Più siamo, più ci divertiamo. Forse era in quattro una festa. In quattro, oh. Vabbè, tre è gruppo comunque. Tre comunque assembramento. Se tre esatto. Assembramento. Tre comunque non possiamo andare a fare la spesa insieme. No. No. Che tristezza. No, molto triste questo fatto, come se tra l'altro avessimo sempre fatto la spesa insieme. O avessimo infatti, fatto però... la spesa, punto. Ma infatti, però questo, beh, come dire, un tema di altre puntate, noi... ciao, per chi non lo sapesse, siamo Radio Tutto l'Anno comunque, abbiamo cambiato nome. Era Radio e... Lotto Tutto l'Anno comunque. Radio Tutto l'Anno, Lotto Tutto l'Anno... Questo lapsus freudiano andrebbe studiato meglio di com'è andata che ho dimenticato Lotto, forse un po' di stanchezza inizia a farsi sentire qui nella lotta dalla quarantena, però sì, Lotto Tutto l'Anno, abbiamo iniziato con questa radio, non con la lotta, l'8 marzo, e mercoledì siamo andate in onda, oggi anche, lunedì di nuovo, mercoledì di nuovo, venerdì di nuovo e così via, sì. Finché dura la quarantena. Abbiamo un po' ridotto le aspettative prestazionali, nel senso che siamo partite dicendo ehi, tutti i giorni in diretta, non è vero. E quindi abbiamo pensato... No, bisogna in questa quarantena si può imparare che possiamo... Rallentiamo, fare meglio, ragazzi. Sì, e poi soprattutto rallentiamo perché condividiamo, perché questi tre giorni di diretta non sono casuali, l'idea è quella di alternarsi con le compagne e compagni e compagno di ZAM, che hanno anche loro una radio bellissima, ospitata sempre da Abbiamo un Dominio, sempre grazie Unit, sempre grazie Autistici. E quindi, insomma, se riusciamo ad andare a regime, noi facciamo il lunedì, loro il martedì, noi il mercoledì, loro il giovedì e via dicendo. Domenica, riposo. Va bene, vogliamo ricordare i contatti? Sì, allora, intanto la mail dove ci potete scrivere, noi facciamo sempre un appello, no? Se ci volete scrivere, ovviamente adesso non per questa diretta, per la grande nuova rubrica Dedica una canzone a, ma per le prossime dirette, se voi ci scrivete prima che andiamo in diretta, potete dedicare una canzone o scriverci la posta del cuore. Comunque tutto questo a nonunadimenomilano@gmail.com. Ecco, poi se poi volete scriverci anche delle cose più serie, noi le leggiamo comunque. Se volete Con raccontarci molta come, gioia, sì. sì, come va la quarantena. Se volete mandare una posta del cuore a noi, tipo delle dichiarazioni d'amore in diretta, noi le accettiamo volentieri. Benissimo, se volete anche scriverci invece appunto storie di lotta dei vostri posti di lavoro o con i vostri datori di lavoro, anche queste noi le ascoltiamo e per quanto possibile cerchiamo di diffonderle e di offrire contatti e simili per poter superare le difficoltà. Quindi abbiamo una mail, che è quella che ha appena Sì, detto Carlotta. la ripetiamo, nonunadimenomilano@gmail.com. Abbiamo un blog, nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. Esattamente, dove tra Abbiamo. l'altro trovate anche tutti i podcast di questa meravigliosa radio. Esatto. Abbiamo anche un canale Telegram che è t.me non una di meno Milano. Esatto, slash nonunadimenomilano. E poi abbiamo Twitter, Instagram, Facebook, ci trovate più o meno ovunque come nonunadimenomilano, nonunadimeno.milano o simili. Va bene. Sì, ci trovate in tutti questi luoghi, appunto, diciamo che in generale ci piacerebbe che questa radio fosse condivisa e che potessimo ascoltare anche le vostre voci e le vostre testimonianze di qualsiasi tipo, sia serie che facete. Per cui anche se volete mandarci degli audio, noi siamo più che disponibili a raccoglierli. Sì, torno un attimo sulla nuova rubrica perché forse tutti non sanno che, sempre per buttarla in caciara tutta sera, questo, come dire, un po' a nascondere il fatto che tra un po' ci finisce la fantasia per le selezioni musicali, perché abbiamo il Esatto. contributo delle nostre meravigliose DJ, ma almeno durante la diretta bisogna che qualcosa ce lo inventiamo. Quindi abbiamo pensato di lanciare questa meravigliosa rubrica che diceva prima Carlotta. Com'è che l'abbiamo chiamata? Ti dedico una canzone, no, Sì, ma una roba così. ma E possiamo chiamarla come vogliamo, così chiamiatela come vi comunque pare. Però ci scrivimi una piaceva, canzone. sì, perché così contrastiamo un po' l'inno di Mameli che non se ne può più. Quindi voi ci chiedete una canzone, poi la pompiamo nelle casse e rispondiamo al E voi potete vicino. anche pomparla dalle finestre Esatto. nel caso qui si può anche unire, io così vi do dei suggerimenti, no? Dedico una canzone apposta del cuore. Esempio, mettiamo che stando a casa tutto il tempo l'unica cosa che guardate è il vicino di fronte, che non avevate mai degnato di uno sguardo, ma che ora improvvisamente vi sembra incredibilmente accattivante. Ecco, La noi quarantena possiamo. e gli ormoni. Esatto, noi possiamo raccogliere la vostra lettera d'amore al vicino, ma anche accompagnarla con una canzone che volete dedicargli e voi così, magari un po' per caso, potete sparare la radio dalle casse e farla sentire anche Spaccare a cuori. questo Romeo. Sì, sospetto che sia più probabile che il vicino abbia 975 anni, ascolti Toto Cutugno, ma anche in quel caso noi possiamo comunque sparargli nelle Comunque, casse Marta, non cose. vogliamo noi mettere dei limiti di età Mai. alle relazioni sia d'amore che semplicemente sessuali. Assolutamente, l'importante è il consenso. Va Esattamente. bene. Allora, siccome qualche contributo invece l'abbiamo ricevuto perché adesso facevamo la Inspiegabilmente, questua. nonostante i nostri appelli. Sì, ma qualcuna ai nostri appelli ha risposto. Lo mandiamo subito. Il contributo Esattamente. che vi facciamo ascoltare è quello delle compagne pisane di Obiezione Respinta. Abbiamo già parlato durante l'altro ieri, durante l'altra diretta, del progetto Obiezione Respinta, ma anche e soprattutto delle difficoltà che in questa fase critica, no? Anche e soprattutto per la sanità, le criticità che si incontrano nel caso si desideri interrompere una gravidanza in quarantena. E quindi lo abbiamo già detto, le compagne di Obiezione Respinta. Obiezione Respinta è una mappatura attiva ormai da 4 anni, nata, ma poi insomma lo racconteranno loro nel vocale, per dare un servizio di supporto a tutte le persone che hanno appunto bisogno di accedere al servizio di interruzione volontaria della gravidanza. E in questa fase difficile hanno anche aperto un canale Telegram dove segnalano tutti gli ospedali o comunque i reparti dove il servizio continua a essere garantito. Che faccio? Mando? Mando il Vai. contributo e poi ne parliamo? Vado? Vai. Va bene, via. Ciao, io sono Eleonora di Obiezione Respinta, un progetto di mappatura dell'obiezione di coscienza nato a partire da delle riflessioni che sono state fatte circa 4 anni fa al tavolo salute, a uno dei primi tavoli salute di Non Una di Meno. Quello di cui ci stiamo occupando specificatamente in questo periodo è l'aborto, il problema dell'aborto ai tempi del Covid-19. Difatti, ultimamente ci sono arrivate diverse segnalazioni, di utenti che, cercando di interrompere una gravidanza, hanno riscontrato diversi problemi a causa, dell'attuale collasso del sistema sanitario. Mi spiego meglio. In diversi reparti sono stati trasferiti, in diversi reparti c'è una carenza di personale a causa dell'emergenza coronavirus per quarantene, e questo porta a un grosso problema. Le donne che devono affrontare un'interruzione volontaria di gravidanza ora non si trovano davanti solo per dire solo il problema dell'obiezione di coscienza, e quindi medici, anestesisti, a volte addirittura farmacisti che si rifiutano di compiere il loro lavoro, ma si trovano davanti anche appunto a un'emergenza sanitaria enorme. Per questo abbiamo deciso di creare appositamente un canale Telegram che potete trovare al nome SOS Aborto Covid-19. In questo canale Telegram facciamo passare tutte le informazioni rispetto alle strutture che ancora forniscono il servizio e a quelle invece in cui è sospeso e non garantito. Dove possiamo indichiamo anche la presenza o meno degli obiettori di coscienza. Se avete dei problemi potete contattarci alla nostra pagina Facebook, alla nostra pagina Instagram. Per email a obiezionerespinta@canaglie.org e per telefono. Abbiamo infatti un numero di telefono attivo 24 ore su 24. Potete contattarci al 331 96 34 889 e una volontaria di noi si occuperà di aiutarvi se appunto dovete interrompere una gravidanza e vi trovate davanti diversi problemi. Speriamo che insieme questi problemi si possano superare, e speriamo che questa emergenza anche possa essere superata e non debba ricadere, come spesso succede, sui più deboli, sui corpi delle donne. Eccoci tornate. Eccoci! Allora, abbiamo sentito le compagne di Obiezione Respinta, sempre grazie. E vogliamo ricordarvi anche che hanno aperto un canale Telegram dove raccolgono e mandano tutte quante le segnalazioni di cui parlava Marta prima su ospedali e strutture in grado di garantire l'aborto, che è SOS Aborto underscore Covid-19. Per ovviamente condividere ma monitorare insieme lo stato dei servizi di IVG in tutta Italia. Quindi Sì, ovunque voi siate, visto che sicuramente ci starete ascoltando non solo a Milano, sicuro, proprio siamo potete. imperdibili dopo tutto. Su questo voglio aggiungere solo una cosa, che in emergenza coronavirus è sicuramente complicato abortire, ma inizia a essere in alcuni luoghi anche, non dico complicato, ma qualche piccolo ostacolo a partorire, perché se negli ospedali, diciamo, dedicati in primo luogo alla ginecologia va tutto benissimo e medici e infermieri fanno un lavoro preziosissimo, è notizia di poco tempo fa che al Policlinico a Modena abbiano sospeso i parti con anestesia, anche nei casi in cui le donne l'avessero richiesto, perché non ci sono abbastanza anestesisti. Questa è una cosa Ecco. che capita un po' sempre negli ospedali Sì. italiani, in generale, ma in questo momento molto di più. È come dire, ovviamente chiaro che un ospedale scelga di dedicare gli anestesisti al reparto dei malati di coronavirus, ma nello stesso tempo ci dice qualcosa sui parti e la considerazione rispetto al È la parto in priorità. Italia. Va bene, sentite, siccome sono ben 16 minuti che parliamo ammorbando tutte, tutti e tutto, suggerirei di mandare un pezzo e così alleggeriamo un po'. Che dite? Perfetto. Vai, allora ci ascoltiamo la Marga adesso. Vai. A tra poco. Sei chiaro che quello che dico, che faccio, che scrivo, che penso a te forse non ti piace. Ma allora com'è che non cambi canale se senti una donna parlare per 5 minuti d'amore e la cosa non ti dà pace? Vuoi uscire, ti cambi mutande, chiedi da bere, c'è chi consiglia ed eviti quelle che vogliono figli, ma sotto sotto sei come un biscotto, il problema è più grosso. Ma forse è lei che non ti piace. L'odore, le stelle, la giacca di pelle. Non devi guardare le foto la notte. Le donne, le botte rovinano l'estate. L'America alle porte, troppo latte, poi troppo porno. Mamma mi drogo, ma non ogni giorno. Eppure c'ho i soldi, ti giuro, non molti. Poiché, come ci ricorda Margherita Vicario, ci sono situazioni che non sono come un porno, porco mondo, sono molto meglio, ci arriva una Scusate, domanda dalla posta scusate. del cuore. Momento di commozione perché è il nostro primo messaggio di posta del cuore. Esatto, No, grazie infatti, è alla persona bellissimo. coraggiosa che ha scelto così di esporsi. Questo ci dice, ma con voi, con le amanti, come vi organizzate? Non dite sexting, che qui si tratta di gente grezza che non sa scrivere. Allora, Ora, questo è sì. chiaramente un grosso problema da Perché quindi Martina. dopo il momento di giubilo per il primo messaggio di posta del cuore, tristezza e cioè proprio l'anda sconfinata di tristezza. Da Certo, perché non va da da da. dimenticato che la quarantena purtroppo è spesso normativa dal punto di vista delle relazioni, cioè puoi avere relazioni con chi ti capita di averci già in casa. E questo è drammatico. Ora io vorrei dire che il sexting aveva, adesso al di là dell'analfabetismo, però il sexting aveva già cacato le ovaie dopo Sì, nel 24 '92, ore. diciamo. Nel 92 figura, eppure a 24 ore dall'inizio della quarantena. Boh, cioè, non lo so, la carica erotica che il giorno che Propongo delle finisce. foto. Le foto, mi raccomando, questo Il ci tengo a nude. dirlo. Non salvatele sui vostri Sì, il device revenge porn qualunque è dietro essi l'angolo. siano, perché non si fa. Beh, se no chiedete comunque il consenso, ma in ogni caso meglio non farlo. Però anche le foto, forse ci si può dare degli appuntamenti Al davanti supermercato, in coda. al supermercato e guardarsi in coda e poi immagazzinare tutta questa carica erotica e portarsela a casa. Così che quella pressione tra le gambe possa essere tutta, come dire, convogliata nel riso col prezzemolo del pranzo. E in un Sì, attimo siamo in Lady Hawk e i film anni 80, serve una musichetta anni 80. Non ce l'ho, raga, Un la attimo, musichetta non ce l'ho, fate comunque se gli anni le brave. 80 ci possono tornare in aiuto in tanti modi, se no potete forse darvi anche degli appuntamenti virtuali e dire oggi invece che così magari ci leggiamo quel bel libro e tutte quelle così cose che dicono tutti su Facebook per dire che in realtà stanno guardando delle bruttissime serie TV su Netflix. Io sto riguardando tutto Friends per dire, però mento e dico che rileggo La Montagna Incantata. Ecco, allora vi date degli appuntamenti davanti a dei porno condivisi, almeno nel pensiero starete facendo la stessa Ah, questo cosa. mi sembra un Bello! suggerimento che ci sta. Non male, non Mi raccomando, ecco, male. il porno ragazzi è difficilissimo però perché trovare oggidì delle piattaforme etiche è complicato, no? Sì, Complicato. sì. Valentine, se sei all'ascolto, dacci dei No, però suggerimenti su scusate, questo. scusate, ho un momento di estrema lucidità. Su malapecora.noblogs, santa Giusto! slavina sempre, io ricordo chiaramente un articolo con link meravigliosi a porno, Perfetto, post-porno perfetto. meraviglioso. Ora non vorrei Finalmente abbiamo avere. capito perché abbiamo fatto tutta quella militanza post-porno nella nostra Assolutamente, vita, per assolutamente. prepararci alla quarantena. Vabbè, tocca tornare serie. Tocca tornare Sì, serie. scusate, Sì, scusate. sì. Grazie comunque, amiche della posta del cuore, Come avete amici, notato, amiche, questa cosa ci ha amici. scosse. Infatti, continuate a scriverci, mi raccomando, Non una di poneteci altri meno. quesiti importanti che poi ci vengono in mente le risposte giuste, come Non. quella dell'ancora. Lo ricordo, non una di meno Milano, @gmail.com. Va bene. Bene, siamo arrivate alle note dolenti Sì, dopo il porno. Ah, questa cosa è maledizione. drammatica, eh? Dopo il post porno così, welfare, lavoro precario. Che dobbiamo fare? In che condizioni siamo di welfare? In Merda stiamo. male. Quasi quanto le piattaforme etiche nella pornografia. Ah, dolorosissimo. No, va Sospironi. bene questa cosa. No, il tema del welfare sul lavoro è molto interessante. Abbiamo più spunti in realtà che potremmo poi discutere anche più avanti, prendendo anche spunto da un testo che è stato scritto che vi consigliamo, che è Lo sciopero delle donne, curato da Morini ed Hervé, che ci parla un po' di com'è il welfare, ossia che non c'è il welfare statale. Io sono uno dei soggetti che ha un welfare aziendale e il mio welfare aziendale mi offre la palestra eterna Tanto non ci puoi andare. i Esatto. massaggini Non li puoi fare. e questo è Oddio, effettivamente il scusate. welfare per loro. Quindi lavorare, però devi anche arrivare in ufficio figa, Sì, volevo, possibilmente. scusatemi, ricordare che proprio a proposito di questo abbiamo anche recentemente scritto delle cose, Sì, sempre perché la trovate ammorbarvi sempre ci sul nostro piace. blog, non una di meno milanoblog.wordpress.com. Esatto. Ma non solo, abbiamo scritto anche il nostro piano, abbiamo un piano che trovate anche sul nostro blog. Incredibilmente avevamo predetto tutto, è incredibile questa cosa. Che Ma sì, fossimo sai, le delle donne sono streghe. tutte un po' streghe, Sì. in coro Marta. Infatti, Siamo le l'avevamo pronipoti. predetto, esatto, delle streghe che non siete riusciti a bruciare. Abbiamo costruito questa sezione che è contro il welfare residuale neoliberale, che potremmo leggervi, che ne Vai, dite? vai, Sì. Fede, leggi. Pubblichiamo i tagli e la completa destrutturazione di forme universali di welfare, capaci di porre argine all'intermittenza lavorativa, alla disoccupazione, di garantire un reale sostegno alle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza, rendono l'attuale contesto storico, sociale ed economico ancora più problematico e inadeguato. In tal senso, radicale è il rifiuto del modello neoliberale di riorganizzazione del welfare, che vuole che siano le donne, spesso migranti, secondo meccanismi di segregazione lavorativa, a farsi carico di tutte quelle prestazioni che non vengono più erogate dal pubblico. Altrettanto netto è il rifiuto sia del welfare aziendale, di cui abbiamo parlato prima, in quanto forma privatizzata di welfare, spesso attuata al prezzo della riduzione dei salari, sia delle politiche tese a favorire la cosiddetta conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita, nella misura in cui riaffermano, anziché contestare, la logica per cui alle donne spetterebbero per definizione le attività domestiche e di cura. Pertanto pretendiamo, prendete appunti se c'è qualcuno di Confindustria che ascolta, Poi ne riparliamo dopo di questa cosa. un welfare universale, gratuito e accessibile a tutte, non basato dunque sul modello familistico vigente, piuttosto capace di riconoscere garanzie e diritti sociali non solo alle donne, ma alle persone migranti, alle soggettività lesbiche, gay, trans, queer e intersex, adeguato alle forme, alle relazioni, ai bisogni e agli stili di vita contemporanei e capace di liberare la coazione al lavoro sfruttato e sottopagato. Servizi laici, gratuiti e non ingerenti rispetto alle scelte degli individui, così come riteniamo fondamentale anche il riconoscimento di esperienze autogestite e autonome di welfare, come per esempio i centri antiviolenza non istituzionali e le consultorie, esperienze fondate sulle pratiche femministe delle donne e in grado di sovvertire le forme di riproduzione sociale che impongono e fissano l'identità e i ruoli di genere. In questo ambito riteniamo misure imprescindibili il rifinanziamento e il potenziamento dei servizi pubblici per l'infanzia, nonché l'accesso universale agli stessi. La priorità data ai genitori lavoratori determina infatti troppo spesso situazioni di disoccupazione forzata per le madri precarie. Il rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture a sostegno delle donne disabili, la cui carenza aggrava peraltro l'esposizione di quest'ultima alla violenza. Politiche reali per la cura dei familiari, delle persone anziane, degli individui che affrontano la questione del lavoro riproduttivo e di cura e dell'organizzazione dello stesso come un problema che riguarda la società tutta e non soltanto, e naturalmente le donne. Più complessivamente, la costruzione di nuove infrastrutture sociali capaci di liberare i nostri tempi di vita invece di costringerci una volta di più tra le mura domestiche, la garanzia del diritto all'abitare. A maggior ragione che le condizioni di precarietà lavorativa rappresentano un forte ostacolo alla conquista di una situazione abitativa stabile e dignitosa per le donne e per le soggettività più vulnerabili. Chiediamo anche politiche a sostegno della maternità, della genitorialità condivisa, dunque estensione incondizionata delle indennità di maternità, di paternità e parentale a tutte le tipologie contrattuali, non solo al lavoro subordinato e parasubordinato e non solo in presenza di un contratto di lavoro. Fede, come declami tu il piano? Ma veramente? sono dovevamo mossa. fare un audiolibro. Siamo sempre in tempo. Rifacciamolo, Siamo un nuovo sempre in programma. tempo. No, avevamo scritto tutto, ci cioè, avessero ascoltato prima, quest'ora non saremmo in questa situazione. È la Ma si sa nostra che oltre che croce. streghe pure un po' Cassandra, quindi Comunque, io volevo dire sempre una così. cosa. Che come dire, sappiamo benissimo che questi momenti sono come degli evidenziatori, no? Sia del male, di cui abbiamo lungamente parlato, ma anche delle possibili soluzioni. Allora, Certo. in questi giorni siamo al giorno di quarantena numero 11, 100.000. 112.000. Comunque, in questi giorni non è che non è, cioè, come dire, non è che è accaduto solo il dramma del sexting con gli analfabeti e dello stare chiusa in casa, ma Che sono comunque è un dramma. che comunque è un dramma, ma sono, cioè, non lo so, adesso io sono felice di sapere che siamo anche capaci di attivarci e di costruire dal basso delle risposte, perché lo abbiamo Giusto. visto dall'alto, drama. E quindi, sempre per la rubrica i contributi che le persone che ci vogliono bene ci hanno mandato, ci piaceva questa sera farvi conoscere, sicuramente le conoscete già, però insomma, dargli voce a una delle esperienze che a Milano sta in qualche modo, come dire, dando respiro. In particolare, quindi, questa esperienza legata alle brigate volontarie per l'emergenza che appunto dal basso cercano delle soluzioni e cercano, come dire, di farsi parte proattiva della soluzione. Abbiamo un contributo audio su questo, che adesso vi facciamo ascoltare volentieri dalla voce di Sofia, che un po' ci racconta appunto cos'è questa esperienza, che cosa sta succedendo in città, ma anche quali possono essere i modi per attivarci a nostra volta e per collaborare. Non so se avete qualcosa da aggiungere, se No, io ascolterei direttamente chi lo sta portando avanti. no. Dai, va bene. Allora, la voce di Sofia. Ciao Marta e ciao alla Radio Pirata di Non Una di Meno Milano. E grazie di aver lasciato questo spazio durante la trasmissione per parlare un po' delle Brigate Volontarie per l'Emergenza. È un progetto che nasce in collaborazione con Emergency ed è attivo a Milano ormai da una settimana. Come funzionano le brigate? C'è un numero unico del centralino del Comune di Milano che è 020202, in cui arrivano chiamate magari da anziani che hanno difficoltà a fare la spesa oppure appunto a scendere le scale, a prendere medicinali. Ci sono molte volontarie e volontari che appunto sono divise per tutte le 9 zone di Milano. Questi ci sono delle persone che rispondono al numero telefonico al centralino di emergency e che poi passano le chiamate ai vari referenti di zona che mandano i loro volontari e volontarie a prendere appunto in carico questa attività di primo aiuto, quindi appunto portare la spesa piuttosto che le medicine. È un progetto che appunto è nato da poco, però è molto interessante vedere come ci sono tantissime persone che sono venute a conoscenza del progetto e si sono attivate per poter dare un contributo, diciamo, a questa cosa. Risponde un po' a una falla che c'è in questo momento, nel senso che è importantissimo stare a casa appunto per riuscire a contenere quanto più possibile la situazione e sperare di uscirne, tra l'altro, in tempi non troppo lunghi, però anche è anche vero che ci sono moltissime persone che hanno delle evidenti difficoltà e diciamo che è molto importante in questo momento riuscire a dare un messaggio di cura, solidarietà, alle persone che in questo momento ne hanno più bisogno e soprattutto che sono più fragili in un momento del genere, che magari vengono prese anche da un forte sentimento di paura e solitudine. Ci sono diversi canali in cui si possono seguire le brigate per

indispensabile in questo momento. È chiaro che, e ci arriviamo, ci sono delle responsabilità ben precise su questo. È chiaro che, come ha detto il rappresentante della FIOM del Friuli, proprio oggi se sono delle responsabilità che fanno dei calcoli economici sulla pelle delle persone, perché tra un po', visto che le chiusure si stanno estendendo in tutta Europa, queste aziende dovranno in qualche modo chiudere, o perché non gli arrivano i pezzi, o perché non hanno a chi vendere, ma o perché prima o poi li assaltiamo, per dire. Anche, possibilissimo, ma stanno cercando di tenere duro, di fare dei calcoli su capire quando farlo. Intanto le persone si ammalano, per cui volevamo leggervi una piccolissima testimonianza veramente veloce che ci arriva dalle Marche, ma che, come poi dicono anche loro, potrebbe essere un po' ovunque, e ci arriva appunto da uno di questi settori del lusso che, come dire, forse necessarissimissimissimi non sono. E le compagne delle Marche scrivono così: stamattina ci è arrivata una terribile notizia. Una delle nostre compagne è stata messa in quarantena per essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Noi non andremo a caccia di untori, untrici, non è questo che ci solleverà. Esprimiamo innanzitutto la nostra vicinanza e solidarietà a chi in questi giorni si trova sola a dover affrontare in casa o negli ospedali la quarantena. Ma ci sono dei responsabili, non chi è portatore del coronavirus. I colpevoli sono chi in questo momento continua a sollecitare di continuare a stare aperti, nonostante i dati del contagio e delle morti. La nostra è una produzione che può essere fermata. Lavoriamo in uno stabilimento di 200 persone e la paura che possiamo essere le prossime contagiate non è più un'ipotesi remota. Fermiamo le produzioni non essenziali, altrimenti saremo noi le prossime malate e rischiamo di portarla a casa ai nostri familiari. Oggi è successo a una di noi, lo avevamo previsto, era questione di tempo. In un luogo dove si lavora insieme, si sanifica per continuare a produrre. Non basta la riduzione di orario, bisogna fermarsi. Ci firmiamo in anonimo perché il brand per cui lavoriamo non ha importanza, perché la nostra situazione è identica a tante altre fabbriche e luoghi di lavoro, cambiano solo i nomi delle multinazionali. Questo anche per ricordare che, anche se c'è una certa retorica che vuole che siano soprattutto le piccole imprese che stanno rimanendo aperte perché non sarebbero in grado di sostenere i costi di uno stop alla produzione, ecco, in realtà ci sono anche moltissime multinazionali che stanno continuando con la produzione, non soltanto, appunto, questa testimonianza viene dalle Marche, non soltanto nelle Marche, ma anche in quei luoghi dove invece i dati del contagio sono molto più alti. È di oggi uno striscione, ad esempio, fuori dalla Confindustria di Bergamo, che recita: padroni assassini, semplice e chiaro, perché non possiamo dimenticare che Confindustria Lombardia solo l'11 di marzo ha dichiarato che non si poteva fermare la produzione perché avrebbe significato non poter più recuperare i clienti una volta che si fosse ripartiti. E noi, proprio a questo proposito, volevamo proporre a tutte, tutti e tutti voi un rituale collettivo su questa cosa. Esattamente, visto che siamo un po' streghe, diciamo così, crediamo che ci siano dei rituali fatti insieme che possono aiutarci. Sì, avremmo voluto avere un accompagnamento musicale, ma la tecnologia non ci ha sostenute in questo, ma siamo sicure che le nostre voci, unite alle vostre, perché vi invitiamo a farlo insieme a noi, saranno sufficienti. Sì, poi si può ripetere in altri momenti della giornata, esatto. Anche questo è sempre dai balconi, se per caso vi sentite lì potete mettere un accompagnamento musicale a vostra scelta. Ecco. Allora andiamo, ripetete insieme a noi. Confindustria, fai attenzione, dopo il virus, rivoluzione. Diciamolo. Ripetiamo. Ancora, sì. Confindustria, fai attenzione, dopo il virus, rivoluzione. Ancora? Sì, tre è sempre meglio. Confindustria, fai attenzione, dopo il virus, rivoluzione. Va bene, a questo punto facciamo sentire un pezzo dal titolo illuminante, Kalashnikov. Per dire. Suggerimenti, lievi. Era Anna Mancini con Kalashnikov, che ci sembrava il modo migliore per suggellare. Industria. Esatto. Da casa ci suggeriscono anche Champagne Molotov. Esatto, oh, esatto, Champagne grazie. Molotov. Mi piace questa comunicazione con i compagni e le compagne da casa. Dunque, ragazze, è giunto il momento. Sì. Sono affranta. Sì. E così noi ci salutiamo, vi lasciamo con Marta, che voi non potete saperlo, ma è la detentrice in questo momento della tecnica. E già questa cosa di la tecnica ha il potere. E già questa cosa fa ridere da morire, perché il fatto che io detenga la tecnica e sia questo anche in grado di vedere, trasferire dei saperi. Marta è bionda. Io sono bionda, sì. Niente. Comunque, ci salutiamo, vi amo sorelle. Anche noi ti amiamo, ci risentiamo prossimamente, sì. Seguiteci sui nostri canali sì, social. Sì, sì, sì, sì. Ora, mentre salutiamo Fede e Carlotta, mandiamo prima una poesia che ci è arrivata da un'ascoltatrice, che si chiama Libera Fica T, di Dada Lupe, che è un'attivista del teatro sociale del Teatro di Strada di Bologna. Poi mettiamo un altro pezzo e poi facciamo un altro pezzettino di diretta con delle super special guest. E niente, ciao amiche. Ciao. Ciao. Poesia. Libera fica di. In un mondo che ti vuole uguale, di versi fica ti. In un mondo che ti vuole schiava, do, mina, ti. In un mondo che ti vuole incerta, scegli ti. In un mondo che ti vuole conforme, modi, fica, ti. In un mondo che ti vuole obbligata, di, steng, ui, ti. In un mondo che ti detta la lingua, parla, ti. In un mondo che ti pareggia, spare, ya, ti. In un mondo che ti vuole sveglia, adora mi ti. In un mondo che ti vuole spenta, appicciati. In un mondo che proietta immagini, chiudi gli occhi, apri l'occhio, sognati. In un mondo c'è un mondo, libera, fica, ti. Spaccare, finire sulle riviste, yeah. Nada per fare successo fuori dall'ombra, nada per fare del sesso dopo una bomba. Uno per il plus, due per il push, araba con gli occhi verdi, odore di fumo e baba ganoush, Non andavo mai a scuola, oh, yeah. Sognavo già i fogli viola, oh. Volo come un piper fuori per il lusso, società tatuate sono da sola, l'avevo detto. Con me in diretta in questo momento c'è Vale. Ciao Vale. Ciao a tutti, tutte, tutto. Benvenuta. Grazie, molto carina la poesia prima. Vero? Ma poi è bello, sì. Ci mandano i contributi, ci sentiamo meno sole. Sì, sì, molto bello. Va bene. Allora. Volevo solo dire una cosa. Colgo l'occasione per salutare in via Edolo che ci stanno ascoltando a Lambretta, che in questo momento è sede di una delle brigate, la Lena Modotti, che sta facendo sentire la radio in tutta la via, perché dalle 18 mettono la musica per tutta la via. Quindi facciamo un momento posta del cuore per sì, via po', Edolo. Ci mancate. Un po', sì. Sì, ci mancano, mi mancano tanto. Va bene. oltre che questo, oltre all'amore incondizionato per il Lambretta, siamo qui per parlare di un altro progetto che segue Vale, che è quello della Rete Gin, in particolare di Rete Gin Milano. E quindi Vale, ti chiederei intanto se hai voglia di raccontare cos'è Rete Gin. So che in tre parole è difficile, però ci proviamo. E poi, vabbè, facciamo un po' di chiacchiera su questo. Va bene, ci proviamo. Ma diciamo che Rete Gin è una rete nazionale che è nata per supportare la causa della rivoluzione del confederalismo democratico e quindi in Siria del nord e dell'est, in Bakur in sostegno alla popolazione, in Bashur. E in particolare Rete Gin sostiene quella che è la rivoluzione della donna, che è il pilastro, uno dei pilastri del confederalismo democratico. Quello che facciamo è organizzare iniziative che portino solidarietà, perché ricordiamoci che la guerra non si è fermata, sta continuando, la situazione, come vediamo, è tragica, quindi la solidarietà internazionale è uno dei nostri obiettivi principali, ma anche quello delle formazioni. Abbiamo svolto moltissime formazioni a Milano con diversi tipi di donne. Formazioni che appunto vogliono sostenere quello che dicevo prima, la rivoluzione della donna in quei territori, rivoluzione che è iniziata molti anni fa all'interno del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e che oggi è diventata una realtà in quelle zone. Oggi in particolare la rivoluzione della donna significa anche andare a studiare quella che è l'origine del patriarcato e quella che è l'origine dell'offuscamento del ruolo della donna, ed è qui che arriviamo a perché Rete Gin. Gin significa donna, e in questo momento, da anni, in quei territori, si studia quella che è la genealogy. Ci sono anche accademie specifiche. Genealogy è la scienza della donna. E che in due parole è un ripensamento anche a tutti gli ambiti che noi ci viviamo, che noi viviamo dell'esistenza, quindi l'economia, la scienza, la storia, la salute, un ripensamento appunto alla luce di questo recupero della storia e del ruolo della donna che prima del suo offuscamento era centrale. Grazie, Spero Vale. di essere stata abbastanza chiara in due Ti ho parole. fatto la famosa domanda da 1 milione di dollari. Ciao, Vale, Mi rendo racconta del conto. confederalismo Mi democratico e di rendo Rete conto Gini che in non 3 minuti. è, però Rete Gin è questo. Facciamo formazioni sul territorio, facciamo formazioni seguendo anche quella che è la genealogy e anche dei nuovi modi di studio e condivisione, e cerchiamo di diffondere quella che è, la rivoluzione del confederalismo democratico, declinandola al nostro contesto. Bene. Per cui, sì, in due parole non è facile, ma Però mi spero sembra che di tu ci aver sia chiarito. riuscita. Sì, mi sembra che tu ci sia riuscita. In tutto questo, in questo periodo, complicato, non c'è bisogno che lo ripetiamo, che siamo in quarantena perché lo sentiamo tutte, tutti e tutto sul nostro corpo e sulla nostra pelle, però, anche Rete Gin sta cercando nuovi strumenti, nuove strade per, continuare a lavorare. Lo fa attraverso l'uso della tecnologia, che è un po' quello che stiamo facendo anche noi ora con la radio, e con un appuntamento settimanale. Sì, ogni martedì c'è un appuntamento alle 4, diciamo che siamo ancora in fase sperimentale, per cui l'orario continua a essere le 4, però vedremo se incontra le esigenze di tutte. Uso solo il femminile non a caso, perché Facciamo Due Chiacchiere è un appuntamento per incontrarsi, confrontarsi, scambiare il proprio vissuto in questo periodo, ma anche oltre, ed è nata da un nostro interrogarci su come poter agire in questo momento di isolamento, anche recuperando un po' quello che ci insegna la pratica le pratiche portate avanti dal confederalismo democratico. Ritornando sempre alla rivoluzione della donna in quei luoghi, una pratica è stata inizialmente quella di andare porta a porta. Oggi andare porta a porta non si può, ma è anche molto difficile per il tessuto urbano che viviamo, caratterizzato da diffidenza e da tutte le da tutti i sentimenti che sappiamo, e quindi abbiamo deciso di sfruttare anche, ripensare all'aggregazione, ripensare a fare rete partendo dall'online. E per questo ogni martedì sulla piattaforma, per ora Zoom potrebbe cambiare, stiamo studiando altre possibilità, sulla piattaforma Zoom alle 4 ci colleghiamo con tutte coloro vogliano collegarsi. Abbiamo fatto l'esperimento numero 0, che è stato martedì scorso ed è stato anche partecipato sia come contributo, come scambio, ma anche un numero dignitoso di persone, pur non avendo pubblicizzato molto, e sono già uscite cose interessanti: l'isolamento, le condizioni di lavoro, diversi sentimenti, le relazioni, tutti i temi che magari porteremo avanti, oltre a scambiarci le nostre esperienze nelle prossime, per così dire, puntate, incontri, ecco, meglio. Grazie Vale. Senti, grazie a voi, grazie a noi, anzi. A gamba tesa, e approfitto dell'argomento e delle cose di cui ci hai parlato per ricordare una cosa che è successa l'altro ieri. A proposito di rivoluzione, confederalismo democratico, ci tenevo a ricordare, perché non l'abbiamo ancora fatto, che l'altro ieri Eddie, una nostra compagna che ha combattuto ISIS nel 2010, scusatemi il tempo mi sfugge, 2017, Vale aiutami, non mi ricordo. Scusate. Dovrebbe essere 2017, sì. Esatto, ha ricevuto comunicazione dell'applicazione della sorveglianza speciale, 2 anni di sorveglianza speciale proprio per questo. Allora io lo dico con alcune parole che sono circolate sui social, no? Allora, se noi diciamo di stare con chi combatte l'ISIS, allora oggi non possiamo non chiederci il Tribunale di Torino che ha emesso questa... Con chi sta? Esatto, da che parte sta. Quindi niente, volevo cogliere questa occasione intanto per salutare Eddie, no, assolutamente, per ringraziarla per quello che ha fatto, per quello che continua a fare, e per ribadire che non una di meno sta con chi combatte l'ISIS. Ecco. Assolutamente sì, grazie per l'occasione, anche da qua abbracciamo Eddie, tra l'altro permettimi, le poche parole che si sono scambiate, l'unica donna ad aver avuto la sorveglianza speciale, sì. L'unica, e niente, noi rinnoviamo l'appuntamento il martedì e presto usciremo probabilmente con un altro appuntamento online. Con i racconti di Benedetta Argentieri, che è appena tornata da quelle zone e che si sta vivendo un baci isolamento. Baci anche alla Benny. Grazie mille. Va bene, baci. Grazie Vale. Marta. Ci un sentiamo bacio. Presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, salutata Vale, adesso ci sentiamo un altro pezzo e poi torniamo ancora pochissimi minuti in diretta con le DJ, perché alla fine della diretta mandiamo, come ormai tradizione, se due volte fanno una tradizione con la sua playlist. A tra poco. Kai kai kai ye maya olodo, kai kai kai asesu olodo, kai kai kai ye maya olodo, kai kai kai asesu olodo. La dio que la dio que la dio que la dio que la dio que la dio que yemaya olodo awalodo mio, yemaya olodo awalodo mio, yemaya olodo awalodo mio, yemaya olodo awalodo mio. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. We is them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. Talk shit, we the cast spell. Long weeds, long nails, corn rope, pigtails. Baby Fox still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches we run shit. four bitches, four corners, north, east, west, south shit. Good witches I fuck with, hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft, white magic is nothing. I'll reach my altar, I'll reach my altar, I'll reach my altar. I'm that Black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that Black Native American, I vanquish your evil. I'm that Black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was Brujas. And I come from an island, and it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. I'll reach in my altar, I'll reach in my altar, I'll reach in my altar, got coins in a counter. I'll reach in my altar, I'll reach in my altar, I'll reach in my altar, got coins in a counter. Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, casting spells with my cousin. I'm a shape-shifting bitch. You don't know who you loving. Better light you a candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spite. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a bruja, and I'ma dress in all white. Sono sola. Abbiamo salutato Vale e ora sono, per mia immensa gioia, ma anche per immensa gioia vostra, con Lady Jay. Ciao Jay! Ciao, ciao a tutte, tutti e tutto. Lo sognavo di dirlo da un sacco di tempo. Wow. Ciao a tutte, tutti e tutto. Niente, allora faccio un preambolo di quello che è successo. Quello che è successo è che Lady Jay, che è il nostro pezzo decore, da quando abbiamo deciso di fare queste dirette, si è offerta gentilmente di farci delle bellissime playlist da mandare dopo la diretta. Meravigliose. Meravigliose. Quello che è successo durante la prima diretta è stato che io ho fatto casino, ovviamente, non poteva non andare così. È successo che lei aveva mandato una playlist con un ordine meraviglioso, molto sensato, e io l'ho mandata ad minchiam. Vabbè, ma è il jet, è proprio è così, ci stava. Doveva stava, andare così. Ma fino a un certo punto ci stava, e infatti la Jay ha pensato bene intanto di mandarmi un'unica traccia già mixata per questa sera. Che stupido, non è per questo, era per fare un po' la professionale, la professionista. Esatto, quale la non professionista. Sono un po' una cazzara, tutti no, lo sanno. Soprattutto perché così la playlist l'hai mixata tu e non l'ha mixata l'auto DJ di MixX, che per carità molto funzionale. Che ridere. Però fino a un certo punto. Però è stato molto divertente, è stato veramente divertente. Sì, abbiamo riso moltissimo, io ero tra il costernato e l'esilarato. Sì. Va bene, allora cosa ci fai sentire stasera? Ma dopo la Vale, le tesine, il confederalismo democratico, mi sa che il livello si abbassa notevolmente, diciamo. Questa caratteristica che ci accomuna. Beh, posso parlare un pochino del mixtape che ho fatto, tra l'altro è il primo mixtape della mia vita mai fatto in vita mia, infatti spero che sia che una cosa decente. Tempo è tempo, almeno questo posso dire, è certo. E niente, cosa ho fatto? Ho messo un po' di roba che mi piace, prima di tutto. E, insomma, la prima traccia, tra l'altro, l'ho ascoltata per caso su YouTube la prima volta e ho detto, ma che strana questa canzone. che ho scoperto che fa parte della colonna sonora di un film che si chiama Harley Quinn, cioè che parla di Harley Quinn, che è questa testuale, la Wikipedia instaura un buon rapporto anche con Poison Ivy, diventando amiche e talvolta anche amanti. Questa cosa è Bene, succulenta. talvolta, talvolta. Sì. Ma poi cosa c'è? Cioè, la seconda traccia sì, che è un pezzo di un noto DJ francese che ha avuto un Chic. grandissimo successo negli anni 90. L'ho scelto perché sembrava un po', mi ricordava un po' I Feel Love di Donna Summer, fichissima quella canzone, che è una delle mie canzoni preferite ed è composta da Giorgio Moroder, che è tipo il dio della musica. Poi cosa c'è? C'è un pezzo di un gruppo musicale electro swing francese, non dico niente perché sennò Ci non parli dico la le sorpresa. tracce e né i gruppi perché sennò vi tolgo la sorpresa. Sì, tanto poi carichiamo tutto sul blog e le playlist ve le riveliamo dopo, però domani. Adesso Sì. lasciamo la surprise. Copyleft a manetto. Ah sì, ecco, c'è questo pezzo che mi è stato suggerito da un'amica che saluto tantissimo, si chiama Chiara di Bergamo, la saluto, ciao! E baci, Ciao baci, Chiara! baci a Chiara. E poi vabbè, Amy Winehouse la dico perché vabbè, che cavolo vi devo dire, cioè, non c'è neanche da presentare, fichissima, tutti la sapranno quella canzone. Ah, poi c'è questo pezzo di Lizzo, che è una rapper statunitense fichissima, che ha fatto carriera un po' più tardi rispetto ad altre rapper perché, mi sono fatto incazzare questa cosa, per via della discriminazione sul suo aspetto fisico abbastanza prorompente. Nel 2014 partì il progetto What's Underneath, leggo perché sennò io vado in palla, dove si toglie i vestiti mentre parla del rapporto col suo corpo e dice testuale: puoi svegliarti e cambiare molte cose del tuo corpo, ma l'inevitabilità di svegliarti nella tua pelle è quello che ci unisce. Molto Bomba, brava. bomba, bomba, bomba. Va E bene. poi. Ah sì, questa che è un'altra fichissima, poi dopo vi lascio la playlist. Bomba Estero è un gruppo colombiano. La canzone che ho messo si intitola Soy Yo, questo ve lo dico, è stata scritta, così almeno tutti se la scrivono e tutti se la vanno a studiare, Prendete è stata appunti. scritta, sì, Le dice è in stata cattedra. scritta come un rimprovero provocatorio alla retorica antilatina della campagna di Trump, e cita: non preoccuparti, la canzone proprio, non preoccuparti se non ti accettano, se ti criticano di semplicemente Soy Yo, sono io. Bomba va. Bene, Jay, grazie. Ho fatto finta di essere un po' un intellettuale, di la verità. Lo sei, non fare la sciocca. Va bene, allora facciamo così. Adesso noi vi facciamo partire la super playlist. Voi pompate un sacco le casse, finestre aperte, che c'è un sacco di bisogno di buona musica. E niente, balliamo, balliamo tutte insieme così ci pare di stare pure un po' più vicine. Grazie, Jay. E ci Grazie a voi, sentiamo molto grazie a presto. tutto. Un Baci, bacio. baci, baci, Ciao. baci. Ci sentiamo lunedì. Oh Ciao. yes. Ciao. Ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4 and 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. I'm the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine Same like bitch on glass. the ass, so you've been the B4. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, say I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright with a bit of tan on it. Say I took it

be the reason why I'm free in my trap soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Rhythm, so we can't get with and do the rolling. Get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with a super hearty. Let's go, so hell no, baby, can you move the rhythm? 'Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't Soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. Si no para on your two feet, baby. That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move. Do what you gotta do, do what you gotta do. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. No, no, no, no, no, standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No, hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, oh, oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. You got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through. You got to be real with yourself, gotta make a move. Stand up, stand up, baby, baby, stand up. You got to stand up, baby. myself and I look across the water and I think about all the things why and in my head history, shining stars, our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time. Me levanto comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Tu.

froid. Alors, je respire. Et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors, je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors, je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Y a veces pasa.